Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti. Inizia all'orario previsto un'altra puntata di Focus Economia. Sorrido, ma la giornata economico-finanziaria oggi, al di là dell'analisi che faremo il giorno dopo l'annuncio del piano Fiat, la faremo alle 18.10, cercando di capire, lo dico perché sono arrivate molte mail, molti sms, soprattutto quello che succederà agli azionisti, agli obbligazionisti della Fiat dopo lo spin-off, che non è uno spin-off dell'auto, è uno spin-off del gruppo, e cercando di capire anche che cosa resterà da quello che abbiamo intuito, letto e analizzato nella parte Fiat Auto e nella parte nel resto della Fiat. Dicevo, al di là di questo tema, sta peggiorando nell'ultima ora e mezza la situazione greca. Allora, io lo so che alcuni di voi scrivono basta con la Grecia, che esca dall'euro. In realtà non è né così facile né oggettivamente praticabile come elemento, ma insomma l'euro è di nuovo sui minimi, sta scivolando a 1,32, le borse ne risentono, risentono anche di un'America debole, l'America perde lo 0,6%, ma insomma i cali in Europa sono di almeno un punto percentuale superiore, 1,70% il calo a Milano, 1,20% a Parigi, 1% Francoforte di calo, Londra meno 0,80, Milano perde più di altre borse, anche perché da noi vanno particolarmente male Saipem, che perde il 5%, Prismian, che perde il 4,40%, Atlantia, che perde il 3,3%, e la Popolare di Milano, che perde il 3%. Poi c'è Impregilo meno 2,80, Unicredit meno 2,60, Lottomatica meno 2,3%, Fiat, possiamo parlare tranquillamente in questo caso di realizzi, meno 2,2%, Italcementi meno 2,2%, Estima Creatronics meno 2,2%, Telecom meno 2,2%, Finmeccanica meno 2,2%, Buzzi Unice meno 2%, Fondiaria meno 2%, come UBI Banca e Monte dei Paschi. Positiva Bulgari più 2,70% ed Exor più 0,70%. E qui già Exor è l'azionista di riferimento, famiglia Agnelli, di Fiat. E su Exor già si iniziano a fare dei ragionamenti diversi. Il titolo infatti guadagna oggi, mentre il titolo Fiat perde, più 0,70, dicevo, vicini a 14 euro per azione Exor. Campari più 0,60. La notizia greca ha avuto ripercussioni soprattutto sull'euro, a 1,3290 in questo momento, e anche nei confronti del franco svizzero siamo a 1,4326. Qual è la notizia greca? Però direte voi, ce ne occuperemo in apertura. In sostanza, l'agenzia di rating Standard & Poor's ha abbassato il voto sulla affidabilità della Grecia, portandolo Moody's ha portato il voto da A2 ad A3. Questa notizia è di circa un quarto d'ora fa. La cosa ha portato tra l'altro ai massimi livelli il rendimento dei bot greci rispetto al rendimento dei bot tedeschi. Lo continuiamo a spiegare: il Bund, il bot tedesco, è il riferimento per tutta Europa, è considerato il paese più affidabile, quindi si va a vedere la differenza tra quanto rende un'obbligazione in Germania e quanto rende un'obbligazione negli altri paesi. Più alta è questa differenza, più a rischio è l'altro paese, perché è come se ognuno di noi dovesse chiedere dei soldi in banca. Più è a rischio, più vengono chieste garanzie, e quindi aumentano anche i tassi praticati, diciamo, dalla banca o da chi ti presta i soldi. Vale anche per i paesi, è schizzato al 6% la differenza di rendimento tra il Bund tedesco e l'obbligazione greca, una differenza che non si vedeva dal febbraio del 1998, 12 anni fa, ma insomma ben prima che l'euro decollasse e che la Grecia entrasse nell'euro. Vi è entrata più tardi, per cui siamo a un livello di dracma marco tedesco più che euro. Niente panico, è un tempo di emergenza nazionale, dice il premier greco Papandreou, ma insomma la borsa è in pesante flessione in Grecia, perde il 4%, il deficit continua a salire e, come se non bastasse, così partiamo subito bene, anche il Portogallo inizia a scricchiolare. Dunque, il Portogallo è a un nuovo massimo storico, il rischio fallimento, misurato sul mercato dei CDS, dei credit default swaps, ossia quelle, quanto costa assicurarsi nel caso fallisca lo Stato a cui tu hai prestato soldi, o comunque il soggetto a cui tu presti soldi, cui compri debito. Insomma, il CDS, che misurano le scommesse sul mercato del rischio di insolvenza del Portogallo, hanno raggiunto un massimo storico a 248 punti base. Anche qui io spero obiettivamente che sia presto per parlare di effetto domino. Il Portogallo ha problemi economici non da poco, ha dimensioni piccole, però insomma di nuovo sotto pressione l'euro e l'area euro soprattutto. Poi parleremo della borsa, già vi abbiamo accennato, dei dati sulla produzione industriale italiana, le stime del Confindustria e anche di alcuni modi, modalità con cui le aziende possono risparmiare in questi periodi di difficoltà. Si chiamano centri d'acquisto, si chiama e-procurement, non ne parliamo quasi mai, ma è un modo per fare acquisti tramite internet, acquisti importanti, acquisti per i grandi gruppi, con risparmi anche significativi dal 15 al 30%, con la possibilità di contrattare con nuovi clienti. Insomma, vorremmo dedicare uno spazio anche a questo. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi, come dicevamo, nella seconda ora Fiat. Adesso le notizie in breve. Il petrolio apre in calo a New York a $82,3 al barile, l'euro è arrivato oggi anche a quota 1,3260, che è il minimo da maggio del 2009. In realtà l'euro è arrivato anche, lo ricorderete, a quota 0,80 sul dollaro quando debuttò, viaggiò per anni a quota 1,1, per cui non è il livello in sé a preoccupare, è che l'euro perde nei confronti del dollaro per via dei timori sulla tenuta dell'euro stesso, non è tanto il livello e il rapporto euro-dollaro. Lasciamo stare per un attimo Grecia e Portogallo. Oggi sta parlando di ripresa mondiale il Fondo Monetario Internazionale a Washington, ha detto il mondo non è ancora messo al sicuro, ha detto Dominique Strauss-Kahn, il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, dobbiamo assicurare la ripresa perché anche se il migliore del previsto è ancora fragile, il mondo non è ancora un posto sicuro, non è possibile tornare alla mentalità business as usual, cioè tornare al modello, all'attività, agli affari precedenti la crisi. Non vediamo però, ha detto Strauss-Kahn, la necessità di concentrare la nostra attenzione su altri paesi dell'area euro oltre la Grecia. E poi Strauss-Kahn ha consegnato al G20 un documento di 57 pagine in cui si appoggia la linea di nuove tasse alle banche per avere meno rischi su future crisi. Quello che fa la Germania, quello che dovrebbe fare Barack Obama, ha detto infatti due tipi di tasse da imporre alle banche, alle istituzioni finanziarie, una sotto forma di controllo, di contributo di stabilità, l'altra sui profitti e sui compensi, che sono alti, molto alti, sia i profitti che i compensi dei grandi gruppi d'affari e delle grandi banche e istituti finanziari a livello mondiale. E soprattutto negli ultimi casi JP Morgan, ma Goldman Sachs, Merrill Lynch, UBS, tutti con profitti record nel 2010. Allora, Credit Suisse, colosso bancario svizzero, nel ricordare di non essere coinvolta nelle indagini della SEC, dell'autorità di controllo americana, ha anche detto che potrebbe essere stata vittima del furto di dati relativi ai suoi clienti. E questo sulla base dei dati che sono in mano alle autorità tedesche. Si aprirebbe un nuovo filone di contribuenti possibilmente evasori, come è già avvenuto per altre banche svizzere. Allora, di Fiat parliamo nella seconda ora. Oggi alcune dichiarazioni, ma insomma Sergio Marchionne ha detto su Termini Imerese il discorso per noi è chiuso. Non c'è null'altra possibilità, lo stabilimento verrà chiuso a fine del 2011, e ancora ha ricordato che ci saranno 20 miliardi di investimenti, ha detto Marchionne, nei prossimi 5 anni i sindacati si possono accontentare. Sì, hanno ragione alcuni ascoltatori che scrivono al 349-238-6666. L'euro che si indebolisce è una buona notizia per le nostre esportazioni. Certo che si esporta meglio con l'euro a 1,32 come adesso. Bisogna capire, per cui non è un grosso problema per chi deve esportare, anzi è un vantaggio. Bisogna capire perché continua a cavare in questo modo e perché il mercato continua a scommettere su una possibilità di crack della Grecia, nonostante il piano di aiuti approvato, annunciato, che la Grecia non manca che far decollare, il piano di aiuti degli Stati europei e del Fondo Monetario Internazionale. Allora, primo tema, Grecia e Portogallo, rischi ai massimi, mentre Eurostat analizza i conti pubblici dei due paesi, nel caso specifico della Grecia, anche se l'Irlanda, per esempio, oggi ha diffuso un deficit ben più alto del previsto, al 14,3%. Pensate che ai tempi normali, con il trattato di Maastricht, l'obbligo dei paesi dell'area euro era di essere entro il 3% nel deficit. L'Italia quest'anno ce l'ha al 5%, insomma l'Irlanda va al 14,3%. Perché pesano in Irlanda i 4 miliardi di euro utilizzati dallo Stato per salvare la Anglo-Irish Bank. Di nuovo gli Stati si sono indebitati per salvare le banche che in alcuni casi, in America, soprattutto in Svizzera, sono già tornate a macinare utili. Comunque, Grecia e Portogallo. Eh sì, i conti pubblici preoccupano non solo per quello che riguarda il deficit portoghese e il deficit irlandese, l'abbiamo appena ricordati. Tra l'altro Eurostat dice che il deficit italiano sarà al 5,3% nel 2009, un po' più alto di quanto stimato dal governo, e il nostro debito resterà il più alto di tutta Europa, per pochissimo, ma anche più alto di quello greco come proporzione sul PIL. Andremo infatti al 115,8% di debito sul PIL, cioè il nostro debito vale più del PIL che produciamo in un anno, mentre la Grecia ce l'ha al 115,1. Ma gli occhi sono tutti puntati su Atene, perché appunto, anche se è a record il rischio sul Portogallo, vedere insomma che le obbligazioni greche rendono un 6%, cioè la differenza con quello che rendono le obbligazioni tedesche del 6%, è un dato veramente che non si vedeva da 12 anni. Questo nonostante il piano di aiuti, lo ricordo, gli aiuti europei varranno 30 miliardi al tasso del 5%, in più ci saranno altri 15 miliardi messi dal Fondo Monetario Internazionale. La Germania presterà 8 miliardi e mezzo, la Francia 6 miliardi e 3, l'Italia 5 miliardi e mezzo, la Spagna 3 miliardi e 6. Sono prestiti, ecco perché abbiamo ricordato che i paesi ci guadagneranno questi prestiti, perché insomma rendono il 5% ed è un rendimento di tutto rispetto. Infatti la Germania guadagnerà 620 milioni di euro da questo prestito, se la Grecia non fallisce chiaramente. La Francia guadagnerà 460 milioni, l'Italia 350 milioni, la Spagna 220 milioni. Devo dire che il mese scorso Fitch, l'altra agenzia di rating, tagliò anche il voto al Portogallo, portandolo da doppia A meno a doppia A meno, con prospettive negative. Il piano di risanamento portoghese prevede anche un calo del deficit PIL entro il 2013, ma insomma è anche lì congelamento degli stipendi nel settore pubblico per 4 anni, tetti agli interventi nell'assistenza sociale, privatizzazioni per 6 miliardi, 40% in meno nella spesa militare, rinvio di 2 anni, sempre in Portogallo, della costruzione dell'alta velocità. Però, adesso cerchiamo di capire perché di nuovo il mercato stia scommettendo su una non tenuta greca. Vittorio D'Aroldo, inviato da Sole 24 Ore ad Atene. Buonasera Vittorio. Buonasera a voi. Allora, prima domanda, poi arriviamo all'analisi delle notizie che ho appena ricordato. Che clima si respira in Grecia? Tu oggi hai girato non solo negli uffici, nelle sedi istituzionali, ma hai anche avuto modo di raccogliere varie dichiarazioni che chiaramente non riusciamo in questo momento a trasmettere. Però vorrei capire visto che domani, se non ricordo male, c'è un nuovo sciopero generale. Oggi c'è stato quello del Partito Comunista e del sindacato legato al Partito Comunista, domani il sciopero del pubblico impiego. Insomma, quanto alta è la tensione in Grecia, oppure Pesa si rende conto, per quello che tu hai visto, delle difficoltà e quindi cerca di tenere botta? Dunque, nelle parti, diciamo così, istituzionali, dove appunto c'è il Fondo Monetario e la Commissione, la missione della Commissione Europea, che stanno appunto valutando, e lo faranno entro 15 giorni, le modalità tecniche perché poi Atene possa chiedere l'aiuto, ha un atteggiamento assolutamente tranquillo e di fiducia, cioè la situazione istituzionale è che la Grecia appunto fronteggerà la situazione ed è pronta appunto a dare tutte le risposte, però non scoprono le carte fino a quando le due missioni del Fondo e dell'Unione Europea non avranno appunto prima posto sul tavolo cosa effettivamente Washington e Bruxelles chiede ad Atene in termini di riforme strutturali, che sono quelle che proprio preoccupano più il governo, perché appunto sono quelle che scatenerebbero e stanno già scatenando stanno scatenando appunto la protesta popolare. Allora, domanda, ce la pongo anche gli ascoltatori, ma cosa aspetta la Grecia a prendersi questi soldi, visto che 30 miliardi li mette l'Europa, 15 li mette il Fondo Monetario, prima li prende, forse prima si tranquillizza la situazione, no? Sì, esattamente, perché la data clou della scadenza del debito greco è quella del 19 maggio, lì scadono 10 miliardi di euro tra rifinanziamenti e cedole da pagare. Il problema è che questo però, anche per secondo gli osservatori, non è sufficiente, cioè ormai il problema è che anche se ci fosse questo prima tranche, poi appunto i 40-45 miliardi, il vero problema è che la Grecia ha bisogno di riforme delle pensioni, riforme appunto per incrementare la produttività, perché è qui il vero problema, cioè la Grecia non corre allo stesso livello degli altri paesi ed è per questo che tutta l'economia è in qualche modo ne risente, ed ecco perché gli spread dei bond greci sono proprio il termometro di questa mancanza di competitività. Per rifare questo occorrono però delle riforme che sono impopolari. Allora, la maggioranza delle persone, la classe media, si è resa conto che questo bisogna farlo, che le riforme sono necessarie, e infatti tutti parlano più dell'autunno, quando sarà ancora più dura, passata diciamo il momento estivo, che qui è visto sempre come un momento economicamente più florido, perché ci sono le entrate appunto determinate dalle rimesse turistiche. Lì sarà veramente il gioco più difficile. Allora, vedo alcune agenzie, leggo assieme a te, la borsa di Atene sta ormai perdendo quasi il 4% ed è scesa sotto la soglia critica dei 1900 punti. E poi la Grecia, secondo quanto ci dice la Reuters in questo momento, avrebbe allo studio un prestito ponte a cui attingere prima che parta il meccanismo degli aiuti da parte dell'Unione Europea e del Fondo Monetario Internazionale. Non vedo nessuna però reazione dei mercati su questo. Altra domanda, insomma, il rendimento sulle obbligazioni tedesche è schizzato al 6%, la differenza tra quanto rende un bund e quanto rende un'obbligazione greca è al 6%, ma secondo te chi sta scommettendo su un crack greco? Perché insomma, la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario, l'Unione Europea, i vari paesi, pur con vari distinguo, ma hanno detto nettamente non è previsto nessun crack, non lasceremo che uno Stato dell'euro possa andare in default, modello Argentina. Sì, ma infatti gli analisti dicono che la speculazione sta giocando proprio sul fatto che non ci sarà default, ma ci sarà semplicemente un salvataggio. Nel momento in cui, dato che il mercato dei titoli greci è abbastanza sottile, cioè sono pochi movimenti per fare grosse oscillazioni, nel momento in cui ci sarà appunto l'annuncio che il piano è stato varato, i rendimenti, cioè il rischio paese, cala e immediatamente poi dei bond greci nel cassetto si vedrà i prezzi aumentare. Ecco perché c'è anche una speculazione di questo tipo che probabilmente verrebbe e verrà messa a tacere solo appunto quando i vari paesi, che ricordiamo ci sono 15 paesi dell'Eurozona che hanno promesso di dare pro quota gli aiuti e ci sono 15 meccanismi legislativi da far partire, cioè devono andare in Parlamento per approvare questo tipo di prestito bilaterale. Come vedete è un meccanismo inedito e assolutamente sì, macchinoso. Ecco, perché, ma lì è colpa anche dei tedeschi, perché insomma è stata la Germania a insistere che non vi fosse un prestito europeo, che forse sarebbe partito in maniera... Cioè, è chiaro che se devi fare votare un prestito da 15 parlamenti è una cosa, se lo fai votare a livello europeo, a livello di Banca Centrale Europea, è un voto solo, adesso semplifico in maniera un po' brutale. È stata però la Germania a dire non se ne parla di un aiuto europeo alla Grecia, al massimo ci possono essere aiuti bilaterali, cioè ogni singolo paese decide pro quota, abbiamo visto le quote, di dare aiuti alla Grecia, ma non esiste un aiuto europeo. E questo chiaramente complica poi anche e allunga i tempi, perché anche l'Italia dovrà votare in Parlamento, ci sarà un decreto, ma poi andrà convertito in legge, vale per la Francia, vale dappertutto. Allora, i consigli di comprare bond greci? No, non abbiamo mai detto, anzi troviamo un po' eccessivo questo rendimento che vola al 6% nei confronti del Bund tedesco. L'ultima domanda, Vittorio, torniamo al clima che si respira. Da quello che abbiamo letto, è vero che l'opinione pubblica più così aggiornata, più europea, dice va bene, facciamo gli sforzi perché qua bisogna portare il paese fuori, ma abbiamo letto anche di molte resistenze nell'opinione pubblica agli aiuti del Fondo Monetario e agli aiuti europei, quasi che fosse il Fondo Monetario poi a aver determinato questa situazione in Grecia. Capisco l'orgoglio nazionale, ma insomma tu hai raccolto ancora queste resistenze politiche, culturali, oppure la situazione aggravandosi convince anche i più scettici? No, assolutamente. Ci sono delle frange di, chiamiamolo, sindacalismo rivoluzionario, o comunque sindacalismo con forte caratterizzazione ideologica comunista, che si fa appunto al PAME, che io oggi ho ascoltato, intervistato, sono sindacalisti professionali naturalmente che non vogliono assolutamente che cambi nulla e hanno addirittura bloccato l'ingresso all'Hotel Gran Bretagna, che è proprio un hotel storico di fronte a Piazza Sintagma, di fronte al Parlamento di Atene, bloccato, pensate, da manifestanti. Non accadeva un blocco di questo hotel storico dal 1944, cioè dall'occupazione nazista. È un fatto quindi emblematico di come ci siano una forte caratterizzazione, una forte resistenza al cambiamento. Sì, ma finché frangia, Vittorio, per quanto perniciosa e pericolosa, resta frangia. Vorrei capire se tu, girando per Atene, noti anche una difficoltà nelle strade, annunci, vendite, negozi chiusi, oppure la situazione in apparenza... Ci sono molti annunci di vendesi e affittasi, cioè le aziende stanno cambiando sede, spostando, riducendo l'ampiezza della sede di rappresentanza e si spostano verso zone più periferiche, verso il Pireo ad esempio, e questo è già un segnale di una grave difficoltà. Poi ci sono gli aumenti naturalmente degli insoluti, stanno aumentando, e domani appunto questo sciopero dei dipendenti pubblici, che ricordiamo sono quelli che in questo momento dovrebbero perdere il 15% dei loro salari, che è appunto la ricetta classica in queste occasioni se tu non hai la possibilità di svalutare, quindi devi in qualche modo ridurre i salari per aumentare la tua competitività, ma questo sta creando forti diciamo anche tensioni sociali. C'è un albergo nella zona di Piazza Ionia che addirittura ha messo delle inferriate di ferro al loro ingresso, perché sono appunto scontri di queste squadre di ragazzi che vengono dalla zona di Exarchia, la zona dove è molto forte appunto la presenza degli anarchici che sono diventati famosi in tutta Europa e sono appunto dei gruppi molto molto diciamo estremi, dei black blocs diciamo, che fanno questi raid improvvisi e spaccano le vetrine, quindi stanno veramente creando tensione. Questo poi, come potete immaginare, crea ulteriori problemi nei confronti del turismo, che oltre appunto al settore navale. Sì, oddio, voglio dire, il turismo potrebbe anche essere, adesso non voglio sembrare troppo cinico, ma magari la Grecia, che già è un paese abbastanza conveniente, quest'estate, viste le difficoltà, potrebbe anche diventare ancora più conveniente. Detto questo, vedo alcuni messaggi che chiedono sostanzialmente, ma insomma, se anche la Grecia fallisse, cosa succederebbe all'Europa? Questa è una bella domanda, perché quando è stato scritto il trattato di Maastricht, quello fondatore dell'euro, non è stato previsto che un paese uscisse, se non ricordo male, Vittorio, sì, né esatto, che un paese fallisse, no. Quindi non lo possiamo sapere. Certo, non esiste in giurisprudenza, cioè, nel trattato di Maastricht era previsto solo le regole per riuscire a entrare, portare il deficit sotto il 3%, avere un debito che tendenzialmente va almeno al 60% del PIL, ma non so perché adesso, nessuno ha mai previsto l'ipotesi che un paese dovesse uscire dall'euro. Non ho la minima idea, non ho neanche la minima idea di come farebbero a riconvertire in dracma i depositi in euro. Penso che sarebbe impraticabile dal punto di vista dell'interconnessione finanziaria. Però, sì, mai certo, dire mai. Vittorio. Certo, teoricamente naturalmente tutto è possibile, nel senso che se un paese in teoria decidesse di fare questa scelta e di svalutare, appunto di togliersi, potrebbe teoricamente farlo, ma non è previsto da nessun trattato, quindi si tratterebbe di terra incognita, terra che nessuno conosce, nessuno ha pensato. Ecco perché si preferisce, cioè, ecco perché poi secondo me l'Europa salverà in ogni caso la Grecia, perché sarebbero, non è tanto il peso della Grecia, l'abbiamo detto più volte, la Grecia pesa come la Lombardia in Europa, non è da solo. Il problema è un altro, è che creerebbe un precedente giuridico, obbligherebbe i paesi europei a decidere cosa fare di uno Stato che è in fallimento, indebolirebbe l'euro più del necessario probabilmente, insomma è il precedente politico. Certo che se anche il Portogallo inizia ad andare in difficoltà, qua la situazione si complica. Un'ultima domanda che ci pongono gli ascoltatori, poi ho il meteo e la pubblicità, Vittorio, riguarda qui la manovra del governo. Già ieri ne parlavamo, è tutta giocata secondo uno schema, devo dire, del Fondo Monetario Internazionale. Tagli, tagli, tagli, quattordicesime, tredicesime, 15% in meno degli stipendi di pubblico impiego, blocco delle assunzioni, aumento dell'età pensionabile, tutto bene, anche perché il pubblico impiego in Grecia in questi anni ha avuto degli aumenti incredibili, che sono la base anche di questo deficit. Però abbiamo letto poco su lotta al nero, all'evasione fiscale, che in Grecia è altissima, lo dicevamo già ieri, modello italiano. Allora, è su questo che poi trovano linfa le frange più estreme, comuniste o comunque anarchiche? Sì, esattamente. Purtroppo qui l'economia sommersa è al 28%, secondo degli studi, naturalmente, hanno preso con beneficio di inventario, dal 28% del PIL, mentre appunto... Pazzesco. Cioè in Italia al 16% e già abbiamo un record, lì al 28%. Sì, sì, è una cosa, diciamo, quasi c'è un'economia parallela, qui la chiamano proprio economia parallela, l'economia sommersa, perché certo, è proprio fiorente ed è assolutamente quasi, voglio dire, comune vedere tipo di doppio mercato, e questo è il vero problema, perché questo naturalmente toglie entrate allo Stato che sostanzialmente è uno Stato che anche qui non ci sono i sistemi di controllo. Questo è il vero problema di questo paese, cioè lo Stato non ha capacità di controllare ciò che avviene, e quindi c'è una forte incapacità anche di controllare proprio i flussi di denaro. Per esempio, lo Stato greco a livello OCSE è tra i primi 10 per la spesa per l'istruzione, e quindi teoricamente spende moltissimo, nei fatti non riesce a farlo né in modo qualitativo, né riesce appunto a controllare i flussi. Come vedete, sono molti problemi che sono determinati proprio anche da una arretratezza nel sistema dello Stato che andrebbe rivisto, le pensioni numerosissime e piccole, però, e quindi è una miriade di piccole a pioggia che vanno appunto in tutti i sensi, ma non, magari non vanno a chi ha realmente poi bisogno, e quindi c'è tutta una serie di deregolamentazioni, perché ci sono anche una serie di ad esempio complicato per un'impresa di trasporti europea venire qui a installarsi, perché ci sono proprio una serie di regolamentazioni fatte anche per proteggere il mercato interno. Quindi è un paese che in qualche modo ha rinviato da 10 anni che rinvia le riforme. Questo è il vero problema strutturale. Comunque grazie Vittorio da Roldo in collegamento con noi da Atene, meteo, pubblicità, poi i mercati che risentono molto di queste notizie appena giunte sulla Grecia. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Ha ragione l'ascoltatore che ci ricorda come un'emissione obbligazionale di titoli tedeschi a 30 anni, da valore di 3 miliardi ieri, abbia avuto sottoscrizioni solo per 2 miliardi e mezzo. Non funziona esattamente come da noi, però è vero. La Germania ieri ha chiesto sul mercato 3 miliardi di euro per finanziare appunto titoli di Stato a 30 anni, ne ha ottenuti solo 3 e mezzo. Ripeto, non è un'asta che va parzialmente deserta come si chiamerebbe da noi, ma non è un bel segnale. E infatti restiamo con l'euro a 1,3280, la crisi greca che pesa, meno 1,80% Milano, che fa peggio delle altre borse. Parigi perde 1,3, Francoforte l'1%, Londra lo 0,90, vabbè, Atene perde quasi il 4, ma ormai non si offendono i greci, fa storia a sé, non rientra più nelle borse europee. Dunque, c'è chi dice sempre quella è la Grecia, perché dite che un giorno va bene e il giorno dopo va male. No, attenzione, noi ci limitiamo a guardare quello che fanno i mercati e quello su cui scommettono. Abbiamo mosso un insieme di obiezioni al fatto che si possa scommettere su un crack greco con 45 miliardi di prestito tra Unione Europea e Fondo Monetario, e con l'Europa che non vuole saperne l'area euro di far fallire la Grecia perché creerebbe un precedente. Evidentemente questo non basta, e c'è chi continua a speculare su una difficoltà sempre maggiore della Grecia e adesso anche del Portogallo. Chiedo conferma, anzi no, facciamo partire la sigla dei mercati. Allora, chiedo conferma che la Grecia di aver pesato ai colleghi come sempre di Radio Cori Sole 24 Ore. Oggi è la volta, per quello che riguarda la borsa, di Ceo Condina. Buonasera Ceo. Buonasera a tutti. Grecia, insomma, ma Grecia... anche Saipem, che ha perso il 5% per altri motivi, scende a 28 euro per azione, e sì che l'utile c'è. Sì, per quanto riguarda Saipem, insomma, da inizio anno aveva guadagnato qualcosa come il 16%, quindi l'utile per azione oggi è stato all'incirca, diciamo, pari alle attese degli analisti. Più che altro si potrebbe spiegare con dei realizzi, insomma, è stato acquistato il titolo fino a oggi in attesa di questo dato, e poi oggi qualcuno ha deciso di alleggerire i portafogli approfittando anche della seduta negativa di borsa, insomma. Per quanto riguarda la Grecia invece, insomma, assomiglia sempre più a una spirale che rischia di non finire. Sempre stamattina è stato rivisto nuovamente peggiorato il deficit PIL 2009 al 13,6%. Sì, continua, sì, ne abbiamo appena parlato, l'agenzia di rating Moody's ha abbassato il voto. Insomma, non si capisce quanto sia sto maledetto deficit greco a questo punto. Devo dire che nel frattempo, perché giustamente l'avevamo anticipato, è uscito anche il centro studio di Confindustria, poi ne parleremo, con una stima di una produzione industriale in aumento, una ripresa italiana che si consolida, e anche una produzione nel primo trimestre che va al più 1,7%. Però l'IRES ha presentato oggi una ricerca in cui emerge che nei primi tre mesi del 2010 5 italiani su 100 hanno saltato un pasto, pranzo o cena, per risparmiare, e il 3% ha chiesto cibo a parenti e amici. Spero e immagino non solo perché cucinano meglio. Giulio Tremonti, ministro dell'economia, durante la direzione nazionale del PDL, che come avete sentito ha obiettivamente altri temi dopo lo scontro tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini, però ha toccato anche i temi economici e ha detto: attenzione, la dinamica e l'estensione di questa crisi resta un'incognita. E lo dice Giulio Tremonti. Siamo ancora dentro una crisi economica che è la più grave dagli anni 30 e che a tutt'oggi si presenta incognita. Incognita per dinamica, incognita per estensione, incognita per intensità. Ed è merito di Berlusconi, ha detto Tremonti, se abbiamo evitato la fine della Grecia. Non siamo fuori, ma all'opposto, siamo ancora dentro una crisi economica che è la più grave dagli anni 30. E che a tutt'oggi ci si presenta incognita, incognita per dinamica, per estensione, per intensità. Se non abbiamo fatto la fine della Grecia, un paese paradigmatico basato sulle diatribe, che produce più democrazia di quella che riesce a consumare e più deficit rispetto a quello che riesce a finanziare. Se non abbiamo fatto la fine della Grecia, ringrazio davvero e sinceramente per gli apprezzamenti, non è stato solo per merito mio, è stato per merito di tutti voi, e soprattutto è stato per merito del Presidente del Consiglio, che alla forza delle idee ha saputo aggiungere la visione di sintesi e la forza di base del consenso popolare e parlamentare. Così, Giulio Tremonti, se non abbiamo fatto la fine della Grecia, questo è il motivo. La dinamica, l'estensione e l'intensità di questa crisi restano comunque un'incognita. Vedo che c'è chi ricorda come all'inizio della crisi Berlusconi e anche Tremonti minimizzarono. Devo dire che Tremonti non ha mai minimizzato. Berlusconi disse sì, più dovuta ai media, un effetto negativo sull'opinione pubblica, per cui uno pensa che le cose andranno male e non consuma. Si sono tutti ricreduti su questo, lo sappiamo. Adesso continuiamo con i mercati, però prima ci sono le informazioni sul traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti. Allora, adesso però basta con la Grecia, tanto temo che non si concluderà oggi il caso greco. Andiamo sugli altri titoli. Prismia meno 4,6, Atlantia meno 3,90, Mediaset meno 3,60, le banche negative meno 3,30, di Fiat parliamo dopo, meno 2,80 Fiat, ma bene Exor più 0,60%. E ancora, per quello che riguarda i titoli, volete sapere giustamente di Unicredito, che oggi era in assemblea degli azionisti, perde il 2,72%. Alessandro Profumo ha detto poco fa durante l'assemblea dei soci: la quota in Mediobanca è storica e strategica, non si tocca. Il patrimonio della banca di Unicredito è adeguato per i nuovi parametri di Basilea 3. Avremo una crescita nell'Unione Europea e in altri paesi. Siamo presenti in Russia, in continua crescita, ma ha escluso la possibilità di acquisizione in altre aree. A chi gli ha chiesto se c'è un interesse a crescere in Brasile, e poi ha precisato che la sede legale della banca resterà a Roma. Il titolo, come si è mosso, meno 2,70, e i bancari in generale, CEO? Sì, il titolo di Unicredito con i bancari fondamentalmente un po' in crisi oggi, sebbene leggermente meglio insomma poi dell'andamento di altri titoli, delle prese di beneficio anche a fronte di alcuni report degli analisti nel caso di Intesa, che nonostante questo hanno promosso il titolo. Per quanto riguarda Unicredito, insomma, la maggior parte dell'attesa insomma si è già esaurita. Questa era semplicemente un'assemblea che doveva sancire i conti 2009, comunque era attesa anche, diciamo, una dichiarazione di Profumo sulla futura strategia della banca dopo che è stato sostanzialmente approvato il bancone. Comunque si tratta insomma di movimenti di assestamento in una giornata negativa per la borsa. Questo per quello che riguarda Unicredito e anche in generale i bancari. Di Saipem abbiamo già detto, Prismian e ST Microelectronics. Sì, entrambi risentono di due trimestrali negative, ST di quella di Nokia che ha perso addirittura il 14% in borsa. Nokia ha chiuso il primo trimestre con un utile netto in, diciamo, quasi la metà rispetto a quello atteso dagli analisti, 175 milioni, quindi ST ha perso il 2,6% perché un concorrente insomma ha fatto male il primo trimestre. Lo stesso vale per Prismian, che comunque ricordiamolo, da inizio anno aveva guadagnato il 14%, quindi ci sta che oggi aveva perso anche il 4%. Ancora sui titoli, Mediaset, lì c'è una notizia che riguarda la Commissione Europea. Muni ha detto che la Commissione Europea risponderà a breve sulla richiesta fatta da Sky per accedere, se ben capito, al digitale terrestre. Sì. Infatti Sky, ostante le cose fino ad oggi, fino a dicembre 2011 non può accederci. Può essere che Almunia decida di farla accedere prima, seppur in chiaro. Questa decisione può aver influenzato il titolo di Mediaset, anche se a dire il vero perdeva già in modo consistente prima che arrivasse questa indicazione di Almunia, che poi aver contribuito insomma. Ancora tra i migliori e i peggiori, vediamo un attimo. Telecom Italia Media sul risparmio più 3,77%, L'Espresso più 3,28%, Meride più 2,91%, Bulgari bene più 2,60%, Nokia invece il peggiore perde il 13,90%. Ma che è successo su Nokia a livello? Su Nokia anche qui è una trimestrale negativa con un utile netto di 175 milioni, che è sì meglio dell'anno scorso quando aveva registrato soltanto 4 milioni, ma lì eravamo nel pieno della crisi, ma è comunque inferiore ai 370 milioni che si attendevano gli analisti, e quindi insomma il mercato ha punito il titolo in maniera decisamente consistente. Ancora P-Quadro tra i peggiori meno 7,1, Poligrafici Editoriale meno 5,5, Saipem meno 5, antichi pellettieri meno 5%, e per quello che riguarda altri migliori citiamo anche la CIA più 2,21% di Fiat, abbiamo già detto meno 2,80% Fiat, mentre Exor, che l'azionista di riferimento, quindi la famiglia Agnelli, guadagna oggi lo 0,6%. Questo sarà interessante anche per ragionare su questa operazione Fiat nella seconda ora del programma. Intesa, volete sapere di Banca Intesa? Va bene, ne riparleremo lunedì quando vi sarà la parte della Fondazione San Paolo. Comunque Intesa, se riesco a trovarla ve lo dico, eccolo qua, meno 1,7% come Generali, come Mediolanum e come Unipol, 1,5% verso Snam, Retegas e Pirelli. Ancora Parmalat meno 1,21%, Azimut meno 1,1%, Enel meno 1%, Ansaldo pure perso l'1%. Direi che i titoli li abbiamo dati tutti, grazie a Ceo Condira di Radio Colli sulle 24 ore. Allora, ultimo file che vi faccio ascoltare, preso che è appena arrivato, è la dichiarazione del numero uno del direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, che sta parlando a Washington. Siamo riusciti infatti ad acquisire adesso, poi vedremo anche se riusciremo a mandare in onda alcune dichiarazioni di Barack Obama, che dovrebbe iniziare a parlare adesso nella Terra del Leone a New York. Natale del lupo si dice veramente. E allora Dominique Strauss-Kahn sulla crisi, sulla lunghezza di questa crisi, sul guado, la parte del guado in cui siamo. Pouvoir prétendre que la crise est derrière nous quand dans beaucoup de pays, pas dans tous, mais dans beaucoup de pays, notamment les pays avancés, le chômage continue de monter. Il y a évidemment un deuxième problème. E allora, appena arrivato appunto da Washington, dice Dominique Strauss-Kahn, la crisi non è ancora finita, il problema maggiore, come sentite sta parlando in francese, è la disoccupazione, in molti paesi resta il problema principale, c'è poi un secondo problema, ossia la domanda privata che inizia a riprendersi, i consumi interni, ma non è ancora abbastanza forte. Non parlo dell'Asia, ma di molti dei paesi del G7, e finché non vi sarà una domanda privata capace di sostenere se stessa, quindi i consumi, ha continuato Dominique Strauss-Kahn, avremo problemi. Un terzo problema riguarda il settore finanziario, dove sembra che ci siano dei rischi di crisi all'orizzonte e dove sul fronte della riforma occorre agire più velocemente. Questa è l'ultima notizia di questa prima ora che siamo stati in grado di darvi, poi diciamo Fiat e Washington e Barack Obama a New York, oltre che le dichiarazioni che arrivano da Washington, sempre con gli occhi puntati sulla Grecia, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia, e dopo aver dedicato una grande pagina e lunga alla Grecia, ricordo che si fosse appena messo in collegamento, che anche i mercati ne hanno risentito, l'euro adesso continua a oscillare tra 1,32 e 9 e 1,33, la Grecia ha peggiorato ulteriormente le stime sul suo deficit, ha beccato un abbassamento di voto da parte di Moody's sulla affidabilità del suo debito e ha visto schizzare a un record storico, non si vedeva dal 1998 la differenza tra quanto rende un'obbligazione greca e quanto rende un'obbligazione tedesca, ormai al 6% la differenza di questo rendimento, con tensioni anche sul Portogallo. Anche il Portogallo ha visto schizzare i massimi livelli il valore del CDS, cioè di quanto costa assicurarsi, diciamo, sul rischio default del Portogallo. Non è una bella notizia, l'euro ne risente, staremo a vedere, non possiamo continuare oggettivamente sulla Grecia, in attesa anche di farvi sentire, se riusciamo, quello che sta dicendo Barack Obama nella Tana del Lupo, cioè a New York, a Wall Street, sulla riforma. Poco fa Obama ha detto non ce l'ho con i derivati, non ha detto esattamente così, adesso riprendo l'agenzia, ha detto credo nel libero mercato, i derivati sono legittimi, gli strumenti derivati, ma vanno controllati, e credo nel libero mercato e voglio una riforma bipartisan, cioè che sia fatta sia dai democratici che dai repubblicani e occorre proteggere, l'ha detto un minuto fa, le famiglie americane dagli speculatori banditi. E qui a qualcuno fischieranno le orecchie tra le grandi banche d'affari americane, Lloyd Blankfein, ma non solo, numero uno di Goldman Sachs. Ancora vedo adesso, allora siamo in grado di farvi sentire anche Barack Obama in versione originale, chiaramente non voice overato. Intanto ringrazio per averci raggiunto in studio Alessandro Paterotti, vice direttore del Sole 24 Ore. L'abitudine ad averti come corrispondente da New York ogni tanto gioca brutti scherzi. Buonasera Alessandro Paterotti. Buonasera a voi. Per parlare di chiaramente Fiat, ma a questo punto forse anche America, perché mi sembra che stia montando anche Barack Obama. Allora sentiamo cosa ha appena dichiarato il presidente americano appunto quanto a riforma di Wall Street. Lo facciamo sentire in originale e poi lo tradurremo, diciamo, a braccio. That crisis was born of a failure of responsibility from Wall Street all the way to Washington. I believe in the power of the free market. I believe. Allora ha detto Barack Obama qualche istante fa, questa crisi ha avuto origine da una mancanza di responsabilità a Wall Street come a Washington. Interessante questo punto. Credo nel libero mercato, in un sistema finanziario forte che aiuta le persone a investire risparmi e a prendere dei prestiti, ma un mercato libero non significa un mercato senza regolamentazione e non si può pretendere ciò che si vuole con qualunque mezzo. Questo è esattamente quello che è successo negli ultimi due anni. Alcuni, non tutti, a Wall Street hanno dimenticato che dietro ogni dollaro, dietro ogni operazione rischiosa, ci sono famiglie che vogliono comprare casa o aprire un'impresa. Quello che succede a Wall Street ha conseguenze sull'intera economia. What happens on Wall Street has real consequences across the country, across our economy. Wall Street reform is an absolutely essential part of that foundation. Allora, così Barack Obama, Alessandro Paterotti, cambiamo un attimo l'ordine della scaletta, poi arriviamo a Fiat, la Fiat che interessa ai risparmiatori, quindi cosa sarà l'azione Fiat, cosa diventeranno le due azioni Fiat e le obbligazioni Fiat. Però un primo commento te lo chiedo, non solo come vice direttore del Sole 24 Ore, ma anche per i tuoi molti anni passati negli Stati Uniti da corrispondente, su questo primo annuncio di una riforma Obama, forte anche dell'indagine della SEC in maniera indiretta, però va avanti. Ma... Certamente, questa è la seconda gamba su cui sta camminando l'amministrazione americana, naturalmente dopo la riforma sanitaria. La riforma sanitaria ha preso il via, a questo punto le carte dell'amministrazione sono tutte concentrate sul mettere i freni alla corsa selvaggia di Wall Street e delle società che fanno il mercato. Ci riuscirà? Ma sicuramente una parte di queste riforme riuscirà sicuramente a vedere la luce, quello soprattutto quanto riguarda l'attività delle banche di investimento. Più complesso il rapporto con le grandi banche globali che ancora esistono negli Stati Uniti e che non sono propriamente società di Wall Street, parlo in particolare di Citigroup, parlo di Bank of America, anche se c'è la componente di Merrill Lynch che è molto forte, ma insomma parliamo anche di JP Morgan in parte, in larga misura. Quindi ecco come si comporterà nei confronti di queste. Qui il punto è sia per quel che riguarda gli stipendi, come sappiamo, ma soprattutto quel che riguarda l'operatività, cioè definire che cosa potranno fare senza mettere a rischio l'intero sistema finanziario. E questo sarà una grande partita, una partita difficile soprattutto perché, ricordiamo, Wall Street è uno dei principali contribuenti dei partiti americani. Eh sì, e anche le banche di Wall Street contribuiscono un poco alle campagne elettorali anche di Barack Obama, oltre che dei repubblicani. Ricordo che oggi il Fondo Monetario Internazionale da Washington ha detto, per voce del direttore generale Dominic Strauss-Kahn, di essere favorevole a due tipi di tassazione addirittura sulle banche. Una tassa da imporre alle istituzioni finanziarie, una sotto forma di contributo di stabilità, che mi sembra di capire sul modello un po' di quello che ha fatto la Germania, l'altra sui profitti e sui compensi, che diventerebbe invece più mirata ai guadagni. Ma è una cosa interessante perché c'è stato uno spostamento d'attenzione del fondo, mentre prima dal fondo ci si aspettava sostanzialmente una proposta legata alla tassazione delle banche, che naturalmente in chiave di fondo anticrisi, ma soprattutto sulle passività delle banche, perché in quel termine si andavano a misurare l'esposizione al rischio. Adesso si è inventato questo nuovo acronimo che è molto divertente, che è FAT. FAT in inglese vuol dire grasso. Certo. L'obiettivo quindi è sgrassare le banche, ma dietro FAT c'è Financial Activity Tax, cioè andare a tassare le attività finanziarie e le retribuzioni, quindi il grasso di Wall Street. i grassi manager di Wall Street, grassi come compensi. Però bisogna vedere poi quale proposta passa, perché mentre all'inizio si pensava che la tassa sarebbe andata a cadere esclusivamente su quelle società finanziarie e banche che espongono gli Stati Uniti o il resto del mondo a un rischio sistemico, la nuova proposta del fondo riguarda tutte le società finanziarie e bancarie, ma anche quelle assicurative. Qui si apre un nuovo fronte che prima non si aspettava. E comunque è solo l'inizio di questa riforma, e la visita di Barack Obama a New York, appunto, ripeto, la tana del lupo, secondo molti osservatori, è un modo per presentarla prima ancora che sia scritta, ma far capire le linee guida ai diretti interessati. E chiudiamo adesso la pagina dedicata a Wall Street, anche se questa riforma è importantissima, perché se la fa l'America poi la fa il resto del sistema finanziario, e si spera possa evitare quella deriva dei derivati a cui abbiamo assistito negli ultimi due anni prima dello scoppio della bolla. Adesso parliamo di Fiat. Parliamo di Fiat all'indomani della presentazione agli analisti del piano industriale e la conferma arrivata ieri in diretta, mentre eravamo in diretta, da Sergio Marchionne, che entro sei mesi si farà lo spin-off, non lo spin-off dell'auto, come qualcuno ha scritto, lo spin-off del gruppo, una cosa un po' diversa, adesso ci arriviamo, la separazione delle attività, in questo momento tutte dentro il marchio, la società Fiat Group, il gruppo Fiat. Oggi, per darvi la cronaca, Sergio Marchionne si è recato a Palazzo Chigi, ha incontrato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, ha detto che la Fiat sta facendo miracoli sulla crescita della produzione, commentando poi l'andamento del piano industriale 2010-2014, ha ricordato che verranno prodotte quasi il doppio di auto in Italia in 4 anni, che ci sono 20 miliardi di investimenti in Italia in 4 anni, i sindacati si devono accontentare, che non c'è nulla di nuovo su Termini Imerese, la partita è chiusa, mentre su Pomigliano d'Arco ha detto Marchionne: se non troviamo un accordo sono disposto a non investire. E allora questa mattina nel programma di Radio 24 9 in punto con Oscar Giannino, così Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, sul piano Fiat. La Fiat non abbia paura, come noi non abbiamo paura che l'azienda, appunto, vuole sfondare notevolmente il tetto delle produzioni, non deve aver paura di garantire anche ai lavoratori i migliori guadagni che si potranno ottenere, lo ricordo a tutti, perché sul secondo livello noi abbiamo ottenuto dal governo un risultato di triplicare minori tasse, di pagare 3 volte in meno le tasse sul salario di produttività, ma a quel punto, grazie anche al sistema contrattuale e anche accordi che possiamo fare per quell'opificio, di garantire più successo per le buste paghe di fronte a un successo di produttività maggiore che si ricerca nella produzione delle auto. Questa è la parte di cronaca, adesso il traffico, poi vedo già molte domande al 349-238-6666, parliamo di quello che capiterà agli azionisti Fiat da qua a sei mesi e anche agli obbligazionisti Fiat, mandate pure i messaggi appunto al 349-238-6666, ci risentiamo tra un minuto. Minuti, ultima parte di Focus Economia. Allora, Alessandro Praterotti, andando proprio chiano, come dicono a Napoli, e calmi, noi abbiamo capito che qui non è uno spin-off, una separazione dell'auto, è una separazione del gruppo, diciamo, Fiat, in cui alcune delle attività, in particolare auto, Fiat Auto, con i vari marchi, Lancia, Alfa e Fiat, Ferrari, Ferrari, Maserati e Chrysler, andranno a una parte, diciamo. Restano... La vecchia Fiat diventa l'auto. Ecco, lo spin-off è di un'altra cosa. Esatto. Adesso sembra una questione di lana caprina, ma quello che viene separato non è l'auto, no, dal corpo centrale, è un'altra parte, mentre resta il corpo centrale dell'auto. Esatto. Non è una questione di lana caprina. Per fare un paragone, possiamo dire così: se l'auto sono le gambe del gruppo Fiat, restano nel gruppo Fiat. Le braccia, ovvero i trattori e i veicoli industriali, sono quelli che escono. E allora avremo l'attuale Fiat, in cui resteranno dentro auto Fiat Auto, con dentro Chrysler, con Ferrari e Maserati e altre attività minori. Poi invece dall'attuale Fiat usciranno, quindi questo è lo spin-off, la separazione, alcune attività che adesso sono dentro invece al gruppo, e si chiamano CNH, che vuol dire Case New Holland, che è la vecchia Case con la New Holland, che hanno due società indipendenti che sono state fuse una decina d'anni fa per far nascere la nuova società CNH, ma di movimento terra e agricole. E poi Iveco, che sono camion, tutti veicoli industriali, più altre attività del gruppo. Sì. Alla luce di questo, oggi il mercato ha dato un po' di realizzo, cioè di vendita dopo i rialzi sul titolo Fiat, che infatti è sceso, adesso vi do il dato definitivo, del 2,83% a 10,3 euro per azione, mentre ha continuato a comprare Exor, che è l'azionista di riferimento, la famiglia Agnelli lì dentro sta, più 0,60%. Che ragionamento stai facendo al mercato? Perché poi interessa anche gli azionisti Fiat in ascolto. Ma intanto, essendo Exor la società di maggioranza relativa, naturalmente, il mercato sta scommettendo sulla stabilità del flusso dei dividendi che vanno verso l'alto, quindi si va al di sopra per ragionare, in attesa di sapere che cosa tecnicamente gli advisor finanziari della Fiat decideranno di fare con la Iveco e con la CNH, che vengono scorporate e inserite in una nuova scatola societaria. In particolare, gli analisti finanziari, il mercato, si chiedono quanto contante, quanto debito e quanto equity, quindi quanto capitale proprio in questo senso, verranno conferite alla nuova società. Su questa base si potranno fare dei ragionamenti di valore. Attualmente l'operazione sotto il profilo finanziario è a valore zero, nel senso che vengono scorporate delle attività messe in un'altra società, ma non cambia il valore dei titoli. Chiaro. È come se venisse diviso. Allora, tant'è vero che gli azionisti, l'esempio concreto, un azionista della Fiat che ha 10 azioni ordinarie e 5 di risparmio riceverà 10 azioni ordinarie e 5 di risparmio della nuova società in cui ci sono i veicoli commerciali e i trattori. Quindi non c'è una che corrisponde al valore che viene tolto dal gruppo Fiat attuale. Quindi qual è la scommessa sul futuro? Quale dei due crescerà di più? Prima domanda. Cioè il valore che sarà creato e aggiunto, dove si andrà a collocare, sui camion o sull'auto? Attualmente il mercato non riesce a capire, non ha gli elementi per poter giudicare dove andranno. L'unico dato di fatto, che è anche il punto di partenza, è che il valore attuale del titolo Fiat, che noi per semplicità adesso con te metteremo a 10 euro, diciamo sì, che siamo a 10 euro il valore, ecco, si stima, questo è il consenso di tutti gli esperti, che c'è un 30% di sconto su quel prezzo. Cioè il mercato adesso valuta, dovrebbe, in base al valore delle attività di Fiat, il titolo dovrebbe valere 13,5 euro. Se non lo fa è perché è tutto dentro assieme. E allora, separando le attività, dovrebbe riconoscere alla parte che esce, quella nuova, che non è l'auto, che resta valore, dentro, un valore diverso. Ma questo valore dipenderà da quelle variabili di cui abbiamo parlato. Altra domanda, ti chiedo risposte rapide perché ce ne sono tantissime. Fiat privilegio e Fiat risparmio, ragionamento analogo? Certo, questo vale per tutte le classi di azioni. Fra l'altro, un altro aspetto che alla Fiat ha semplificato molto il percorso, cioè quello di dare nuove classi, tre classi di azioni, come avviene attualmente per il gruppo Fiat. Per la Fiat è molto comodo perché accelera il processo di spin-off, ma allo stesso tempo al mercato piace meno, in questo senso, perché non ha possibilità di scelta. Le obbligazioni Fiat, attualmente questo è un discorso anche questo molto interessante, perché sulla base dei programmi annunciati ieri dovrà essere diviso al 50% fra le due entità, cioè un 50% di debito in teoria. Le obbligazioni, lo ricordo, sono debito, sono prestiti debito. Che tu hai allora chiesto le sul obbligazioni mercato. Ammontano a circa 12 miliardi di euro, grosso modo su un debito di 23 miliardi di euro. Presumibilmente le obbligazioni, ecco, diciamo così, non c'è diritto di recesso, quindi chi ha le obbligazioni resta con le obbligazioni che ha oggi. Bisognerà vedere appunto quanto sarà inserito su una società e quanto sull'altra. Probabilmente resterà tutto in casa Fiat, vecchia Fiat, quindi l'auto, e in questo senso, diciamo così, considerando che la redditività del gruppo auto è un po' più bassa di quella del gruppo industriale, veicoli industriali, questo qui, insomma, si dovrà calcolare il fatto che gli investitori dovranno avere la certezza che il flusso dei pagamenti, dei rendimenti, sia sempre pagato. Ultima domanda, che è insomma quella in cauda venenum: perché lo fa? Allora, si dice come spiegazione di borsa, perché in questo momento, tenendo tutto quanto nel calderone, auto non auto, camion, trattori, come tu ricordavi, non valorizzi abbastanza una cosa che invece separata verrebbe, perché più chiara, più valorizzata, e quindi avresti un 30% in più di valore del titolo. C'è chi dice no, attenzione, l'abbiamo letto oggi su molti giornali, lo scopo vero è avere Marchionne che guiderà la parte auto, e quindi una Fiat che guarda molto molto verso al di là dell'oceano, diciamo, verso l'America, e poi invece attività non auto, magari camion, appunto, e trattori, ma non auto in senso stretto, che restano, diciamo, di pertinenza della nuova seconda Fiat, non so come chiamarla. Sì, cercherò di semplificare il più possibile. Allora, il discorso è questo. È vero che c'è una riorganizzazione, appunto, diciamo, per far emergere del valore che oggi la borsa non riconosce, ma non è certamente questa l'operazione, diciamo, alla base, il fatto alla base di questa operazione. Ci sono due ragioni per cui si sta facendo. Uno, per consentire a Marchionne di dare un valore al blocco dell'auto nel momento stesso in cui andrà a trattare con Obama per comprare tutta la Chrysler, perché attualmente noi non sappiamo veramente qual è il valore che il mercato riconosce alla Fiat auto. Quindi, primo elemento, dare un valore per trattare poi con Obama. Secondo elemento, il fatto che le partecipazioni finanziarie della famiglia Agnelli e le partecipazioni editoriali, parlo ad esempio della RCS, siano rimaste nella parte auto, significa che rimane un legame molto importante diretto della famiglia su quel settore, quindi rimarrà, per quanto possano esserci operazioni, rimarrà lì la mano della famiglia. Nella parte industriale, quella scorporata, non ci sono questi asset, per cui il mercato che cosa pensa? Così liberata sarà possibile trovare un partner, un acquirente, vuoi che sia un cinese o un europeo, per poter liberare più rapidamente, cioè vendere, se c'è il caso, o integrare con un altro operatore tutta la parte dei veicoli industriali. Lo stesso può valere naturalmente per l'auto, perché una volta che si è fissato un valore e la Chrysler è stata incorporata, ma questo apre una parentesi importante: quando la Chrysler sarà incorporata? Questo è un, possiamo dare due scadenze temporali in modo che il nostro ascoltatore lo ricordi. Quando la Chrysler ha l'obbligo di ripagare, di portare a 3 miliardi dagli attuali 9,6 miliardi il debito con il tesoro americano. Quindi quando sarà ripagati quei 6 miliardi al governo, e questo naturalmente dovrebbe avvenire anche con la quotazione in borsa della Chrysler, a quel punto è possibile che le due società si fondano. Per cui attenzione, le partecipazioni editoriali, che hanno un valore, diciamo, che va al di là del semplice valore economico, restano nella Fiat vecchia, non so più come chiamare, quella con dentro l'auto. Le altre partecipazioni, diciamo, avrebbe le mani più libere anche l'azionista di riferimento per decidere se allearsi o trovare un compratore per la parte trattori e camion, e allo stesso modo per Marchionne è più facile dire: io vengo, ti porto in dote un settore auto che dentro non ha altro che l'auto, esatto, sostanzialmente, e fare l'accordo con Obama. Grazie a Alessandro Praterotti, a vice direttore del Sole 24 Ore. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto, vi lascio alla nostra programmazione, ci risentiamo domani dalle 17 in poi, intanto buona serata. Radio 24. La passione si sente.